Sì, anche io lo so, perché geloso sì. No, forse è freschetto, ci sta bene, ma è sta fresca fresca. Ma come ventilatore mi accetto? C'ho questo ventilatore che ha 5 fale. Mi raccomando, mi segna la temperatura, è un bijou. Ho pagato 50 euro, ma è una meraviglia, va, una meraviglia. Luca, come sto arrivando di segnare lì, che sto usando il 3009? Sì, tra il più e il 3, quasi sul più, quasi più sul 3, sì. Ma ha migliorato il segnale oppure no? Vabbè, sono a casa, Natalino, lo so, ma penso di sì comunque. Ehi là, perché l'ho attaccato diretto al rosmetro, ho tolto il commutatore, sto usando il 3009, da quello omologato. Ah, ho capito, come quello mio, dai, anche il mio è melegato. E me, Claudio, la veniva la butta da dire. Sì, io mi sciolgo luce di roba di svella, l'ho piazzato, finalmente, se non è dietro senza distacco la radio. Bene, sta andando. Di luci, oh, di luci. Come sempre, no? Come sempre, un attimino di bianco per me che mi sto... sono appena rientrato, là. E mi sciolgo buco di rubrizzo. Sì, io vado a mangiare, che l'ho ancora mangiato, là, c'avevo gente, ce ne sono andati là. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Radio per Ivella. Natalino, capelli corti. Antonio per il piatto. Oh, ci sentiamo dopo, Natta. Dai che vado a mangiare un boccone. Ciao. Ciao, ciao. Sempre bene sta andando la radio, sì. Eia. Benissimo, dai. Cucino a doppio più, non ce ne fa vedere più. Ciao, a dopo. State chiamando, ero un attimino in bagno. Natali. Ehi, tutti andati, ce ne sono. Capa, sono sceso un attimino in bagno. Sono sceso. Oh, ya. Yeah. Il segnale da te, come va, Antu? Secondo te come ti anda? No, come sto arrivando? Sto usando il 3009, che l'altro non ce l'ho più. Sei qua, sei 950 Radio 5, cosa vuoi di più? No, si è migliorato o peggiorato, non lo so. Più o meno sempre lo stesso, Natali. Andrà bene Meda allora, va. Andrà bene Meda. No, qua Natali si è salito di due segnali, 6-9 adesso, abbondante. Oh, e il 3009 questo, è là. Ehi, oltre il 9 sì adesso, prima eri tra il 7 e l'8, ok? A dopo, ciao. Dai, ho spegnuto la radio, forza. Adesso mi misuro quello che devo misurare e poi se ci siete più tardi, da. Capo, mi lumi, io ci ho manciudato lo smitter, manciudato, avanti già. Io spegnete la radio, buonasera. Gianni Perivella. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, già, adesso andiamo a mangiare, vai, Claudio Sparviero dalle alture delle campagne, ciao. Gianni Carriola. Bene, bene, da. Buona carica allora, dai. Luia. Senti casa basca, là. Capa, io che sei 960, quindi a posto. C'è Gianni Carriola, quello, per forza. Tumbarella, si dice. Va bene, Gianni Tumbarella. Olbia, Olbia. Noia. Che si dice, che si dice? Claudio, attitudine. Luca. Ciao Luca, buonasera. Ben ascoltato. Ho detto, che si dice, che si dice? Ma buonasera, ti ha giù visto un corsovico qualche mattina. Può essere, stai parlando con qualcuno. Boh, probabile. Probabile. Cosa faceva per il carrellino della spesa? No, sono a piedi lì in corsovico. Poi è possibile. Sì, è possibile. Allora ti hai detto, da. Bassottino, capelli corti corti. Bello, brizzolato. Penna bianca, dai. Troppo pure io, eh. Ah, beh, io già sono molto più alto, Non so di canto, ma sono più alto di te. Il tanto che basta, come si dice? Io sono 1,77, 1,78, dai. Ehi. Mi manca qualche spicciolo per arrivare a 1,70, dai. Allora già siamo lì, dai. Andiamo. Capa, me li vuoi uccidere? O cresce tutte e due volte, o uno cresce di meno e poi cresce più sotto. Cazzo, a me mi è cresciuta, vabbè, la fredda già andava bene, non mi posso lamentare. Cazzo, ma pure un naso, boh. E non solo un naso, Aspetta che ne levo il bippi, che c'avevo il bippi inserito. Ma io non lo posso levare, è 3 anni che non si può levare. A meno che si può fare qualche modifica, boh. Ah, boh, vabbè, qua già si può levare, dai. Adesso ho visto che c'è il tastino schiacciato. Tanto, naso, la bui. E quindi per i kamikaze che girano con il monopattino adesso entrano in vigore il casco e l'assicurazione obbligatoria. Così dicono, così stanno dicendo tutti. Ehi, adesso io con il grubiscio. Cazzo, uno o due ne passano sopra marciapiede a fionda qua sotto. Adesso di là, uno esce dallo buscare, cazzo, di rimessa lì. Ma come me l'hai comprato? Me lo comparendi? Sotto zozzo, venchini, comprare a Miro. Meno male qua. Ah, io l'ho provato, però se è usato con criterio, con la testa, non è male. Però il problema è questo, che fai niente, cazzo, che un capo il cervello lo usa per sopra le orecchie. Ma io già avrei fatto fare, per usarlo, anche un corso, tipo una patente, una cosa così, a certe attrezzature, perché non è possibile che dici. Però io so pure una cosa, so che a minorenni non lo potresti dare mai. Non lo sai. E certo. Già, vabbè, se ne sono schiantati di fessi, Poi vabbè, passa in mezzo alla. Cioè, ti stai dicendo che passano su marciapiede, tu esci dallo bucato e li imbracciano. Cioè, ve la fai. Oh, non esiste. C'è la carriera grande. Gioca in carriera, no? Non in altro marciapiede. Ma appunto, cioè, appunto. Per la carriera vai. Che poi cosa devi fare che goce? Oh yeah! Io me l'avevo fiagata già da quando avevamo fatto le promozioni. Me l'avevo già fiagata quando l'hanno passato, che hanno iniziato a pompare questa cosa qua, gitto, cioè vedi che da un momento all'altro, come hanno iniziato a pompare le vendite, prima o poi salterà fuori l'obbligo dell'assicurazione del casco e forse anche della targa. Mi tacca che esci tu. Allora, è successo un fatto da poco, che questa qua ha pigliato una signora anziana, gli ha truccato il femore. Allora, cavolo, i familiari l'hanno denunciato, una ragazzina è stata a farlo. I genitori devono pagarli i danni a questa signora qua. Certo, cioè, chi rompe paga, no? Vedi? Ha creato il danno e bisogna, come si dice, ha creato il danno e bisogna porre rimedio. Sì, ma io ho visto, c'è gente nella tangenziale che hanno visto, cioè, e poi me la uno la butti butti la sa di farende, chissà cosa camminava che ne sai. Cioè, il mio amico era a più di 70 e Cattaedo gli dava fatto, gli dava. Ma stai scherzando con una roba del genere, vai a camminare così? Come tutte le cose sono modificabili, Antu. Quindi basta smanettarci un po'. Come ti vai a camminare? A parte che se trovi tipo in corso vico ci sono alcuni lastroni, sono modi. Cazzo, ti sei in casa quel rottino lì, sai, ne zisci. Hai paradura, zisci. Ma andando piano e non zisci. Ne è passato uno l'altra mattina, era una scheggia, minimo sarà stata 50. Non va bene, andare piano devo andare, mica è un ciccafuzzo me. Se ti baffi chissà cosa, io l'ho provato e lo so com'è. Devi andare tranquillo, devi andare con quella roba lì. Se no ti c'è bideggi. Ello. Avanti Natalì. Allora sai invece cos'è successo qua? Nella strada mia, ieri. La storia del piccione, si è entrato dentro la macchina. ma chi sa signora si è fatta male, a chi gli tu dirà appunto nella pranciata e si racconta innanza a chi sa ringhiera, chi ve, e ha piegato anche il paletto. Sono distrutte le due macchine. Sì, lo stavo leggendo su sulla nuova online. E che cosa, sei passimato e quindi boom. Tu comunque sia, ti fanno fare la revisione della patente, secondo me. Perché non è gittatoria, rubiccione, fa cosa. Boh, io ho letto così, che adesso non mi ricordo in quale macchina era, praticamente sono acciappato la colomba dentro la macchina, sai, spaventato, chi era la guida magari, cazzo, non è riuscito a controllarsi e boom. Non tiri il freno a mano subito, non metti il piede sul freno. Carità qua. Vabbè dai, l'importante è che non si sia fatto troppo male, che si sia fatto troppo male nessuno, dai. E quella signora si è fatta male, si deve visto burlare il becchi. Dice che si è fatta male alla faccia questa signora. Io ho mandato mia moglie perché una bomba a Baria. E tu vai che deve essere che hanno messo sotto qualcuno e è successo qualcosa di grave, che gli ho detto a mia moglie. E da poi si è occupato di uccidere, infatti. Cazzo. Vabbè, fatalità. Si chiamano imprevisti per quello. Infatti. Abbiamo visto, è vero, burro. Già è vero che l'ho visto io, Antu. No, che è entrato il piccione. Nel piccione è vero, se l'hanno messo dentro una scatola i vigili del fuoco. Mica hanno bloccato la strada per un paio d'ore, Adesso in quel caso non so cosa succede. Così è. Cazzo, ti sono presente che tu fai così, però che tu sei associato davvero. Se si racuta nello marciapiede, nell'altro marciapiede si racuta a questa signora. Infatti le due macchine sono distrutte, Pagare gliela deve. Lui è invaso una corsia. E un macello è successo. Anche il piccione fa la sua parte. Bisogna vedere se il piccione è assicurato. Li butti dalla battente e li ritirano. I piumi, i rivocano i piumi. Non lo so in quei casi se a lui gli fanno fare la revisione comunque. Vabbè. Poi giustamente bisogna vedere l'esatta dinamica dell'incidente, poi come si dice, le attenuanti del caso, dai. Cappa, e se non ho fatto il ridito di briccomene, chi si è caricato il lavoro nel 30 appunto, attenuamente. Sì, avevo visto, forse avevo visto delle fotografie. Marco di catena, Bruce. Marco di catena azzurro, Altro che carichi sporgenti. Il cartello l'ho posto, c'è anche il pastorato di la zona, di faccio. Gli è andata bene, dai. Come di chi si impresa di Zarragone. Vabbè. Di lì devi fare, o la palla spaccami. Capo, ma sai, l'istruttore di scuola guida mi ha tanto rumore, barredì. Scusa un attimo, c'è una bassa telefono. Sarese, sai. Cos'è questa? Come si sei musica sassarese. E a me da si può sì. Cazzo. Questa è musica a ballare. Senti. Adesso ci hanno notato che è musica da discoteca. Capa. Sì, è bella anche la musica da sarese, però a me mi piace la musica a ballare. E a me lo stesso. Ma te bacchito mi sembra da fare, capito? Non ho capito cosa hai detto. Ho detto prima che mi sembrava così, perché l'ho sentito un pezzettino piccolo, poi già ho fatto ascolto e si nota che è diversa. Capa, un po' diversa. Dai, il giorno che capita la serata vieni a trovarmi. Ehi, già uno di questa sera, oggi no. Cominciano già a avere i sintomi qua di quello che ho fatto stasera. Cazzo, mi fanno male le gengive, mi fanno male. Sono bevuto quasi 3 bicchieri di aranciata, adesso che stanno cominciando già a farmi male le gengive appena. Le mani e le braccia. Appena sto un po' meglio, già mi avvicino, non c'è problema. Così ci beviamo qualcosa. Dici dove ci troviamo, ci beviamo qualcosa. Ecco, no, quando dovrò fare l'evento, capito? Ah, ho capito. Capa, già ti avviso prima, arrivo, perché se mi arriva, se mi chiama, già ti arrivo, avviso prima. Ah, con tipo una badà. Stasera c'è le cose vicino a te, me. Cazzo, c'era l'odore di Zemina, mi stavo avendo la voglia di con Giovanni, ha detto, Giovanni, gira la macchina, gli ho detto che andiamo a mangiare i panini. Capa, oggi all'ippodromo c'è cosa, c'è, soffendi, c'è una specie di tutti i paninari, perciò. Spirito sto dicendo nel senso, sono passato lì, e sentivo questo odore di Zemino, Zemino, salsiccione, cosa del genere, ho detto a Giovanna, cazzo, ho detto torna indietro, ho detto andiamo a mangiare un po' di panini, ho detto. No, 90 ore, ci andiamo al limite un altro giorno, mi ha detto. Uno lo sentiva dalla parte del bar, mi appena entri. E non lo so, non l'ho mai fatto di avvertire una cosa del genere. Forse per attirare un po' di clienti, senz'altro. Avrà fatto. Ma quel bar è caro come il coso, mi. Per andare a bere un bicchiere, cioè una bottiglia di birra, ti conviene andare al circo di fronte, quello del club dove gioco la tennis, perché da lui 3,50 non si può bere una bottiglia di birra, stai scherzando. Anniken, la vendono Anniken qua, al bar che c'è vado io, dal bacchiere a 3 euro. E vabbè, l'Anniken 3 euro si può pagare, anche qua c'è l'inchiusa a 3 euro per questo, ma è badele, poi hanno aumentato tutti la birra, dopo il lockdown tutti quanti hanno aumentato. Per i farsi dei soldi che hanno perso, capito? Quella volta che hanno chiuso tutti. Anche nei circoli è aumentato, adesso l'inchiusa è 2,50, prima era 2 euro per dire. Ma già lo so già, adesso può pagare da Sariati. Ah, ma questo di qua vicino è onesto, la verità. Ah, non è che ti deve Mondezzo, ti deve Anniken, ti deve 3 euro. Quella grande. Sì, c'è buona Anniken. Molto meglio della Tubo, lei. La Tubo boh, non mi piace a me. Non riesco a digerirla. L'Anniken invece c'è buona. Capo, a te la metti quando sta già regando il nostro azzurro. Buona era. E ce lo credo che era buona. Orzo di Sardegna usano. E già lo so, è buona. Dammi la giovinta, ya. Di quelli non si faccia nulla con me, no. Ma la Tubo, di Turbo, a me mi va di racca, mo, la verità. Non è un granché. È bevibile, ma non è un granché. Sì, lo so, ma non ho chiesto per curiosità in quel bar che c'è lì al coso, dove ho fatto il vaccino. Già mi ha fatto 1,50. Chissà cosa sarà la birra. C'è un locale già guadagni. Ma è giusto anche che sia così, Di Nanni deve gaba, mia mese. Sì, adesso due volte ho bevuto la lancetta lì, stasera me l'ho presa da lo spin. Sono andato di fronte a Mauro e mi sono preso, mi sono fatto la spesa, mi sono preso una bottiglia di lancetta. Mi sono bevuto due bicchieri appena sono entrato, poi un altro bicchiere prima di cenare. Mi piace molto, cavolo, l'ho preso un paio di volte e ci abita. Lo sai cosa sto prendendo? O prendo la San Pellegrino o la Oranzola, Monaredda e Issa. E la lanciata vera è quella Fanta, quella buona. Quella che è bevibile, quella che c'ha lo spi è tutto gas. Sembra che stai bevendo CO2. No, veramente la lanciata buona è Oranzola. La San Pellegrino, la Fanta fa direttamente che cagà proprio, non è più come una volta, non fa schifo adesso. Però io la verità l'ho bevuta l'altro giorno, era buona, qua sotto l'ho bevuta, al bar, anche stamattina. A me piace molto la San Pellegrino o l'Oranzola, tutto un altro gusto. Controllo, da così guarda un po'. Cosa cambia? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Da, sei passato da 9,15 diciamo a 9,20. Già va bene. Scappa, va bene sì. Sto pilotando, Sto usando solo due finali, gli altri due devo sistemare, cioè gli due. Uno è il pilota, diciamo. Devo sistemarlo, sono di questi giorni ci vado e me lo compro. 30 euro per MRF 4,22 glielo cambio. Qua sopra c'è Marungavo Burume. Beh, logico che cambio il cavo. Prima però devo cambiare il finale, faccio solo un passaggio. Se vedo che la potenza sale per il 30, cioè 15 secondi, che va bene, poi salgo sopra che cambio immediatamente le RC. Dopo le RC 58 ci metto il 213, ce l'ho. Scappa. Stavo dicendo, ce l'ha Fusaro quello? No, penso di no, non lo so, devo chiederglielo, se ce l'ha, se no me lo faccio ordinare, o se no lo dico a mia nipote, me lo dirò da cosa, da Amazon, mi sembra che ce li ha, o da Amazon qualche altro posto, eBay, dove capita, mi sembra 30 euro costa. Cappa, ordina là lì. L'ordine lo cambio con calma, ma l'ho messo da parte, l'ho sceso più che altro ieri, però non lo sto usando, era solo per provare, questo già funziona. Cappa. No, certo che funziona, solo che è bruciato il finale. Per colpa mia ho bruciato più che altro. Ho detto non ritrazionare, ho fatto uno spezzone di rosmetro. Hai capito? Ho messo a 6, stavo facendo 600 stazionari a 0, tac, tutto un tratto da 500 è sceso a 100, quasi 200. Era comare che non era valvola. No, fosse stata valvola avrebbe bruciato la valvola per aver visto a sfiammare come minimo. E cuppieggia me. Io già ne ho valvole, non è quella, ma ne ho 6 di valvole, a voglia di riserva. Poi l'altro lato a Giovanni, l'altro lineare, l'ho pensato a lei con la valvola americana. Ma non mi accende, scommetto. Un pochettino giù di modulazione era. E già lo accende, già, non ti preoccupare, già lo sa accendere, lo sa anche usare, non so l'altro. Quando era piccolo entrava a baracchino, io non è che usavo il coso, no? Il 23 canali, no? Usavo l'FT250, quando ci vuole coso mio fratello farlo funzionare, eppure lei ci è riuscita, guardava a me tutti i giorni come lo usavo. Quindi sono uscito, sono andato a casa dell'amico e sento questo break in fondo scala, sto avanti, chi è? Ciao, sono Giovanna Coca-Cola, sto usando l'FT250, come mi ascolti fratellino, mi ha detto. Hai dovuto spegni immediatamente tutto perché mi fai saltare in aria quello quanto c'è, gli ho detto. No, già lo so usare, non ti preoccupare, mi ha detto. Ma quanti anni ha di differenza? Giovanna è 10 meno di me e qualcosa, 12 mi sembra. Allora 40 anni, non anni va? Non mi sbaglio, era 42, non vorrei dirti fesserie, dovrebbe essere 42 mi pare. Molto più giovane di te. Beh, io sono classe 63. Cazzo, tuo fratello è più grande? Giampiero è 61. Cioè, stai il babbo? Sì, io. 60 anni ce li ha o deve ancora compiere? No, ce li ha, ce li ha. Cazzo. Che babbo. Da 61. Sì, la voglia, che... Ma tuo padre in casa non ha attaccato niente, non c'è più niente, tutto l'ha fatto fuori. Ma Jackie Penny gli era rimasto, però l'antenna è qualche portatile. Non è voluto più attaccare. Beh, una volta che era successo quel casino lì, avevamo dato tutto. Abbiamo ricordato. E delle fesserie poi era qualche altro. Sono state delle parole con qualcuno e ha preso e diceva fa il culo, ma chi la ce la faccia stare a parlarmi tutti lì. E ha preso e ha attaccato tutto. Dovevi fare un carattere così, cosa vuoi fare? Sì, vabbè, io ho il suo carattere, cioè, io sono... di 28 anni così baracchino, è un agio passato, via. Anzi, prima c'erano un sacco di affaratori, la verità, parlo negli anni 80-90. Poi adesso diminuita la gente con queste ore di computer, capito, le tue balle sono molto di meno di prima tutti i giorni tanto fave, ci riusciva a metterti portante in macchina, ti tirare perseguitava di tutti i canali. Ma veramente c'era un'inciviltà, c'era, io già me lo ricordo anni or sono, proprio incivile, che invece c'è tutti uno per tutti, ci dobbiamo porre con la bozza di chi era più forte. Ma che non ti va a ricoverare, che c'è bacca e dai, vomitevoli erano, non erano persone che... Vabbè, anche io c'ero bello attrezzato. C'è chi usava 1000, chi ne usava 600, chi 700, come me, usava il V2001, l'MK3 con la valvola. Quindi figurati. Sono passati tutti quei tempi che ho roba di bollette che mi pagavo, crocro. Beh, se sei sempre buon pende. Ma io dico Antonella, nel lato umano ho cercato di essere un pochettino più uniti. La maniera di rafforza, da voi andava a cudì uno, l'altro, andava nelle baracce a fare niente, cazzo, ma stiamo scherzando, ma che persone incivili sono, ma veramente. E allora sì che c'era gente che andava a cercare la gente a bar a picchiare, gli è successo già. Inciviltà proprio, invece andare d'accordo, vuoi essere amici, andare a cudì. Se un carriaggio, c'è una persona che non vale a niente, sì. Sono cose che succedevano una volta, adesso oramai siamo pochi, cosa da fare a fare? Non c'è più il coso di prima, oramai siamo pochi e quelli che quando entriamo siamo tutti in un canale, oppure a volte siamo due ruote, dipende. Però ci andiamo d'accordo, là, tutti quanti. Ma io dico, ma per cosa andare a fare affarratorio? Ma cazzo, mica è un tuo simile. Ma perché devi andare a farrati? No, non lo capisco. Io parlo anche di prima, uno deve essere d'accordo, devono andare a farci le cene insieme. essere uniti come una famiglia, non sì. Ah, tu ti faccio una mamma che sì, ma vai, pezzo di meta, sì, non vale a niente. Quante volte potevamo fare con le alle cene, che avevamo ogni risata, mamma mia. Allora, ma auguro. Allora, poi io di là, poi adesso giusto, giusto, quando c'era la lira, veniva con 100.000 lire e davo 10.000 lire il resto. Tutto il resto sono tabi, rapizze, ne vedeva poca di gente. Beh, Puruedo non era da prendere in giro così, però. Anzi, guarda, parecchie volte si divertiva, non è che... Cazzo, mica beveva anche lui, mi. Ti sto dicendo che 5-6 mila si beveva tranquillo da solo, mi. Non lo beccavi così, no, poveretto. Era un pozzo senza fondo, era. Non mi facevi nulla. Capo, e poi il domani fracimava. E poi il domani, vabbè, c'era quello che poi gli facevo uscire gli occhi di fuori, incominciava a bestemmiare, e la madre dietro, voi volete far crepare mio figlio? Io me lo ricordo bene, non è che non me lo ricordo, Antonio, quanto succedeva. Io me lo ricordo anch'io, ci sono registrazioni. Ancora, qualcuno ce li ha. Ce l'avevo anch'io nel computer e poi ho passato il computer a uno e a mio nipote li avevo cancellati. Se no ce l'avevo anch'io tutte quante, tutti i file, c'erano roba di una settantina. So già. E prendevo la rincorsa, brutto coglione! Allora, faceva così, faceva. E lui lo facevano schiattare davvero, facevano schiattare. Poi faceva il nome di tutti, specialmente il mio, mi faccio squillare il telefono, Alice, lo so che sei tu. 27-3390 mi faceva. Ti faccio squillare il telefono mattina, sera, notte e giorno. Dopo me la via con Danilo, quello del latte dolce. Sì, con Danilo Supi, con Piero Drago, con Tonino specialmente anche. Come niente me la via. Cioè, quando io lo facevi schiattare, quando faceva il gioco della calzetta qua, e appena entrava uno, si doveva per forza possederlo lui. Già lo so già. Immagina se fosse entrato adesso, i cibi che sarebbero rientrati, scommetti. Tutti si avevano ripensato il baracchino in casa, lo dico io. Vuoi via brutta bestia, mi diceva che uno. Vuoi via brutta bestia, diceva. Infatti, dicevano così. Sai quante volte gli ho chiesto, Paolo, perché non rientri a baracchino? No, mamma non vuole, diceva, mamma non vuole. Ma con mia sorella? Oh no no no, no, il baracchino ormai, dice, no, non lo so più. E gli ho detto, peccato, ho detto, l'avrei fatto entrare, gli ho detto, in altra frequenza, così avresti avessi fatto compagnia. Un giorno mi ha trappato l'animazione, guarda tu se puoi dargli un portatile, mi ha detto, e farlo entrare in una frequenza, in VHF, che venga a casa tutti spezzo le ossa, mi ha detto. E se immagini tu che la frequenza di là ha fatto il gioco con la calzetta. Quel periodo lì a Cenerano è arrivato là, ma sono diminuiti. Però, troppo un casino quella. Vabbè, prima c'era casino. Però, la verità ci manca, A parte le donne che non ce ne manca una, comunque ci mancava anche lui. Non so. Sono state ragazze, è stata quello, sarebbe entrata un bel po' di gente. Prima facevano i manici sessuali, facevano. Sto venendo a trovarti, mi metto l'apparecchio in macchina, così ci conosciamo. Alcuni bugiani burome. Già lo so, già. Scappa, magari era sessuale di voce, ma la bue non era tanto... un granché. Sì, ce ne erano brutte, non ce l'avevo conosciuta una, per carità. Dalla voce ci parlavo tutti i giorni, fino alle mezzanotte, alle 3 del mattino. Quando l'ho conosciuta, per carità, me le sovrate, le guardate. E una gazzarella anche marito faceva l'infermiere, era Giovanni C. 91, capito? Da buon'anima. Lui c'è occhi azzurri, parlava mattina e sera, anche con i camionisti, mi rimaneva tutto il giorno, dalla mattina alle 8 entrava fino alla sera tardi. Un giorno ero con Cosimo Andrea Mariconio, mi fa, detto dove sei? Mi fa, solo siamo prima, dice, dalla galleria, dice, ci fermiamo lì, dice, così ti conosco, quando l'ho vista me ne sono parati di braccio, me ne sono parati. Tutto ci può vedere dalla vista. E vabbè, c'era, ma che ragazza è carina, ti ho conosciuto, non è che non l'abbia conosciuto. Capa. Vabbè, ma c'aveva il marito, c'aveva? Sì, il marito era infermiere, te lo sto dicendo. Lavorava all'ospedale civile, in ortopedia per l'esattezza. Io mi ricordo una cosa. Perché poi ci andavo io quando ero piccolo a poi soccorso, a Baltimora. Io già Franco in pensione, lavorava al comune fino a poco tempo, a due mesi fa. Andato via in pensione a dicembre. Gianfranco. Lavorava lì a Palazzo Ducale. Figurati. Purtroppo, sai com'è. La moglie già lo so, sono separati, infatti, me l'ha detto anche lui, ci siamo separati, la Graziella mi ha detto, lei per i fatti suoi, per i fatti miei, vivo da solo, io sto bene, adesso dice, mi godo la cosa, mi ha detto, la vita, almeno non devo lavorare, sono tutti i giorni in giro, mi ha detto, mi piglio un caravan, e mi ha detto, tutti i giorni a passeggio, da una parte all'altra. Ti stavo dicendo, lui però, io mi sono conosciuto anche con i figli, mi sono conosciuto quando ero piccolo, ci ho giocato con quei bambini lì, perché siamo la stessa età abbiamo, capito? I figli non me li ricordo, io la verità, mi ricordo di lui, mi ricordo di Graziella, però i figli no. L'avevo spesso quando avevo in mano le ambulanze, adesso non so se ce l'hai ancora lì, le ambulanze in mano. No, per la volta ha finito. Sì, perché ce l'avevo in mano lì, se la prendevo sempre lì, anche in ospedale, adesso non l'ho più vista, evidentemente hanno dato tutte a qualcun altro le ambulanze, le pubbliche soccorso. Ma canta, no, non lo sapevi cosa era successo. No, sapevo che era separato, che le ambulanze ce l'aveva in mano la moglie, poi non gli ho chiesto niente a Gianfranco, non mi ha detto niente manco lui. Cavolo, quello che ne ha fatto rubare niente, da quella volta lì che è successo un casino, lì non ha fatto più ambulanza. È stato condannato, un casino è successo. Ah, quello che è successo il paziente tanti anni fa, ho capito. Mi ricordo di questa storia. Dalla volta che non che ha finito proprio. E ha fatto bene, guarda, è inutile stare, cioè pigliati persone che vogliono fare i volontari per dire, poi a tutto un tratto ti mettono in mezzo ai casini, devi pagare anche un paziente, capito? Non saranno, ha fatto bene, guarda, a mollare tutto, ha fatto veramente bene. C'avevo anche l'ambulanza tanto tempo fa, quando c'era Roberto Pinna, la Croce Bianca, ci venivano tutti i civili, ci venivano, figurati. E un giorno era capitato che aveva guidato un ragazzo nuovo, CB che c'era, e dicendo è successo questo, mi ha detto, che cosa? Ha detto, cosa è successo? Che cosa si è sbattuto? Mi ha detto, quando mi ha detto così, io gli ho detto, fuori tutti da oggi, che si chiude tutto, ho detto, ma perché? Perché io non ce l'ho a pagare la roba agli altri, gli ho detto. Con l'assicurazione, mi dispiace, se volete usare voi le ambulanze, usatevele voi, agiatevi voi, gli ho detto, io voglio tutto, non me la sento, ho detto, di pagare ambulanze, cioè macchine degli altri per colpa vostra, ma stavo andare piano a guidare come si deve, no, come ti rimancanti, non siamo alla Croce Verde qua che che andavano a prendere le pizze in via Cassia Redda e usavano la sirena. Imprevisto può succedere, adesso vabbè, c'hanno tutte le assicurazioni, quindi c'hanno il casco, non è buco, quindi non è che pagano loro direttamente, capito? Ma allora è diverso. Ma prima mi cacciavo dal casco io di là, no? Lì c'era l'ambulanza, ne avevamo quattro, erano tre quattro assicurate, quindi ciò che guadagnavo nel... per l'ambulanza lo utilizzavo per pagare la benzina e per pagare l'assicurazione. Non ho mai voluto niente io di soldi, non mi è mai fregato niente. Più che altro era per fare volontariato. Dopo che è successo quello, ho preso e mollato tutto. No? Non mi è sembrato più il caso di tenermela, capito? Ma un'associazione era? Comunque è stata lì, comunque che ne farà durbarsi niente. Che associazione era? Lo sto dicendo, Croce Bianca, quella che c'era in via Sassiprigio. Vabbè, però l'imprevisto può succedere, non è che tutti paga assicurazione. Vabbè, ma non volevo che mi attaccassi io. Io mi dico, sei la tutta giusta, io forza. Tutti fuori, ho detto, si chiude tutto da oggi. E infatti non ho più fatto niente. Abbiamo preso io e Roberto, abbiamo chiuso la tutta. L'ambulanza l'abbiamo messa di nuovo dentro al capannone e lì l'abbiamo lasciata. Dove c'era anche l'elicottero, detto, c'era l'elicottero, le ambulanze, anche le case della mostra e come si chiama? Le macchine per portare i cosi, i muschi. Ma non l'ha finanziata qualcuno questa associazione? Roberto l'ha finanziata, Roberto Pinna, è una roba sua tutta. Vabbè, la funzionava e continuava, no? Guarda che in quella... Allora, quando si crea una società del genere, si crea perché bisogna andare avanti. No. Capito? Non è che al primo cosa, ma la tutta cosa, non è modo di ragionare neanche quello. Io siccome niente autisti del genere non ne volevo più sapere, anche perché abbiamo dato tutto per sicurezza. Usavamo dei tricoli che piaceva benzina, quelli bassi, 2000 e passa di cilindrata erano, già pompavano poco quelli. Capo, già lo so già. Vabbè, comunque non si... Ma è Roberto Idraulico, No, non è Roberto Idraulico, Roberto Pinna, già lo conosci, c'è l'agenzia che è Monte Grappa, di fronte alla banale Maria Antonio, quello che è morto. No, il padre era Giovanni, l'ambulanza non c'entrava un cavolo con Giovanni. Capo, dici? Io l'avrei fatta diventare grande. E i soldi ci vogliono. Anzi, a parte che adesso c'è la questione delle ambulanze, mi sembra ogni 5 anni vanno cambiate. Quella ci avevano un bel po' di anni con le ambulanze, figurati tu. Adesso qualcuno che vuole rinnovato, quindi purtroppo è così per legge. Mi ha trovato un po' di ragione, di una tutti. C'è la convenzione, certo, lo paga ogni tanto. No! Sì, ma con i soldi di risulto paga oppure qualche altra cosa. Sempre dei soldi nostri, Emmi. Perché la fondazione sono in pratica soldi nostri, insomma. Adesso un po' sono cambiate le cose. Adesso chi c'è lì no. È anche mezzo pagato. Sì, quello sì, la 118 sì, stanno pagando, chi fa l'orario di servizio lo pagano. Cioè, diciamo che funziona tutto diversamente dagli anni vostri. Quello io lo so. Adesso ci sono anche cose, hai notato, i pompieri dentro, pompieri tanto per dire, vabbè, diciamo che chiamiamoli pompieri, ma sono addetti al coso. L'antincendio. Ho capito. Ma adesso è tutto diverso, Antonio. Non è più come una volta. purtroppo. Come sono, per diventare grandi bisogna anche avere pazienza molto, bisogna lavorare tanto, Ma secondo me chi c'ha più ambulanze in questo momento è quello che c'è di fronte a te, perché si è ingrandito, col Covid si è ingrandito parecchio, ho visto, quindi vuol dire che c'ha un bel di roba, un bel di fondi c'ha. Perché le altre ambulanze ho visto che sono sempre le stesse, non è mai cambiato nulla. No, quanta associazione grande è coso, il soccorso sardo. Sì, una volta c'era l'Avis, se te lo ricordi, facevano i festini, facevano. Ogni settimana andavano in coso a spagassare i soldi, in pizzeria, ragazzi. Non è essere seri, vabbè, può capitare, per carità, Antone, può capitare che ci sia una festa di un'associazione, ma può capitare di una buccia, due bucciare un mese, così, ma non la fa sempre così. Prima l'Avis era sempre così, guarda che c'aveva un bel mese, me lo ricordo, c'aveva parecchi mesi, l'Avis di Sassari, era una cosa impressionante, era. Poi si hanno sbagassato tutti i soldi, chi si è affarrato, si è aperto un'altra associazione, da quell'associazione poi hanno aperto un'altra, sono sempre così, stanno facendo sempre così, capito? Si dividono, eccetera, eccetera. Ma che cosa stava bene, la verità? Il padrone della Croce Verde, vabbè, una volta avevamo fatto la cavalcata, c'era il padrone della Croce Verde, c'era con l'ambulanza all'ippodromo, l'ambulanza al coso, andiamo a fare che roba, c'era addirittura anche l'elicottero, figurati, poi si è fatto dallo fumo, si è fatto quello. Non ha fatto buona rumbo, procede da Loriga. E a Loriga sì, proprio a lui. Non ha fatto buona rumbo. Purtroppo anche lui non è che era una voce. Ma queste cose qua ci vuole la continuità e devi far crescere l'associazione. Anche se tu cominci già a mangiarti di là, non crescerà mai. Deciso perché l'hanno distrutto, cioè, perché è distrutto, perché non c'è stato nessuno che l'abbia preso seriamente. Deciso, ma ce l'ho conosciuto. Anche loro c'hanno pochi mesi. Poi, vabbè, ogni tanto c'è chi andava per conoscere le ragazze per andare a fare il ciucucciù, come ti fai dire una volta, che prendevo le ambulanze per andare a fare cose a Baltamona, state le immagini. Troppa gente che bisogna lavorare in un'associazione per farla crescere, e lì non so di chi pagano, non chi ve lo smomma, cioè. Cavolo, se tu hai voglia di fare, li avrebbero avuto anche gli volontari pagati, cioè volontari, personale. Perché adesso funziona così, mi anche. Sì, però l'ho visto, adesso è cambiato tutto. Oramai non è più come una volta, non me ne frego. Adesso è una cosa diventata più seria, capito? Chi è diventato forte, chi è diventato, cioè chi sta parando di base, sta parando di base. E poi loro, la Croce Blu, sono cresciuti adesso perché soprattutto c'è un presidente che ha le palle. E poi si è associato con Humanitas, cioè hanno avuto un accordo. Humanitas è un'associazione fortissima, va nei elicotteri, gamio, a coso, a un timbaraggio si chiama, ma adesso non mi viene, a Salerno. Beh, ha fatto bene, ha sfruttato un po' la cosa, almeno sono più tranquilli. E bisogna avere coso, culo, sapere utilizzare i fondi e essere seri, se no sei fottuto, e avere volontari seri, non di quei volontari che vanno tanto per divertirsi, capito? Devono stare molto attenti con lui, magari che lui cade il paziente, oppure che muoia dentro l'ambulanza, che le facciamo crepare l'oro, hai capito? Lì è fatto così, se no sei della paglia fuori dalle palle, capito? Non è a giocare, no, anche vedrento. Vabbè, non è a giocare, no. Secondo te quante ambulanze, oh, l'unica cosa che non fanno più è il coso, poche associazioni, cioè, fanno trasporti la notte, la verità. Oramai fanno tutti 118 e basta. Quando telefoni sembra che stai facendo la lavoro ti lussa per poter, cioè, trovare un'associazione che ti possa portare un congiunto in casa, capito? Lo fanno, sei tranquillo che lo fanno. Sì, sai quante volte all'ospedale, dopo la mezzanotte, le 3 di mattino, a cercare un'ambulanza disponibile, uia. Per carità, guarda. E mio fratello, quante volte l'ho fatto? La ruota russa sembrava. Ma quando trova l'associazione, un casino, o non ti rispondono, oppure dice noi facciamo solo 118. Sono pochi che fanno trasporti, molto, due o tre associazioni, non di più, che fanno trasporti la notte. Noi non fanno solo 118 loro. Ehi, tu chiamalo Sant'Anna a vedere se non te lo guardi. Però c'è un parò, si va a pagare. E anche due fesso coso, è legata a Saggesta e all'RSA più che altro è legata. Fai Saggesta, quello che c'è via Pulizzetta e l'altra RSA che c'è qui su via Carlo Felice. Ma c'è un'associazione, scusa? Due fesso coso. Sì, lo fanno sì, e lo fanno anche a Sant'Anna, molto, molto volentieri. E devo dire perché io volevo molto spesso lavorare con l'ambulanza lì a Saggesta, salivano qua su all'RSA che c'è qua sopra, addirittura, per prendere gli anziani, capito, che si sentivano male. C'era un periodo, era tutti i giorni, quando c'era il Covid, tutti i giorni, stavi scendi, era. Lo so già, scappa. Allora io mi gioco drumenti, dai. Ce la risentiamo, ciao, buonanotte. Non ce la faccio più, mi sta chiudendo gli occhi. Ehi, vabbè, ciao a tutti, ci sentiamo domani, buonanotte e buon lavoro. Ciao, ciao.